dove ci sono i soldi, i piccioli, la mafia, insomma, è disposta a chiudere un occhio o anche due. E come anticipato lo dimostra questa operazione, perché perno di tutta la tutto il sequestro, come hai giustamente anticipato, è questo signor Vito Nicastri, un imprenditore che anche lui subisce una mutazione genetica. Lui è una persona coinvolta in una truffa negli anni 90 e nonostante lui parli, denunci, poi come hai ben detto, lui riesce a continuare a fare affari con la mafia, anzi addirittura insomma incrementa i propri affari e fa guadagnare molti soldi alla mafia. Ecco, questo infatti è qualcosa, diciamo così, di ancor più devastante, perché la mafia purtroppo dimostra, Cosa Nostra in questo caso, di essere al passo con i tempi, essere un passo sempre oltre rispetto allo Stato. La tua sensazione da giornalista che racconta da anni le cose del Sud, le cose palermitane in particolare, qual è? Di un aver scoperto l'acqua calda, oppure effettivamente ti rendi conto che presso le forze dell'ordine, gli inquirenti, gli investigatori, gli stessi colleghi, c'è la sensazione che le energie pulite siano davvero un grande business per le mafie? Lo sono e lo dimostrano i dati che tu hai dato. C'è un fatto vecchio. Il fatto vecchio, a mio avviso, è che è comunque la mafia, a dispetto del cliché, ovvero del fatto che tutti pensino che la mafia abbia delle regole e che non trasgredisca queste regole, le famose regole d'onore su cui si fonderebbe Cosa Nostra, ebbene queste regole vengono calpestate ogni qualvolta alla mafia faccia comodo. Certo. E come in questo caso. E il fatto nuovo è che comunque la mafia riesce a sfruttare degli imprenditori anche fuori dalla propria compagine, perché questo signor Nicastri non è un affiliato, non è quello che viene definito un punciuto, ma è un imprenditore bravo, esperto nelle truffe, così certo. Lo definiscono anche gli stessi inquirenti, perché lui è una condanna, quindi è un truffatore ufficiale condannato, certo, proprio certo. Per truffa. Ebbene, la mafia decide di appoggiarsi a lui per fare affari.